se la indichiamo nell'aspetto cronologico che vi ho indicato io, non ha pesato più di tanto. Perché? Perché ad esempio nel 1974 c'è una straordinaria vittoria elettorale nel referendum sul divorzio. È una straordinaria vittoria elettorale perché una questione che poteva essere confinata al privato, alle famiglie, una questione di coscienza, una questione morale come quella del divorzio, diventa di ambito politico, viene fortemente ideologizzata a sinistra e a destra e viene praticamente giocata come una vera battaglia campale. In quel momento la vittoria sul divorzio ottenuta dal fronte laico, quindi dai liberali alla sinistra, è una straordinaria inversione di tendenza dell'inerzia che si era creata fino a quel momento. Vi ricordo che invece nel 1972 l'MSI raggiunge il suo culmine andando oltre l'8% dei suffragi, quindi diventando anche una minaccia per gli equilibri politici. Nel 74 tutto questo viene spezzato con questa importantissima vittoria che diventa poi lo stimolo a un'altra serie di riforme. Subito dopo il divorzio si comincia a parlare di aborto e cominciano le battaglie per l'aborto e si apre anche un'altra legge importante portata a termine dal Parlamento, che è quella della riforma del diritto di famiglia, dove finalmente a entrambi i coniugi vengono dati gli stessi diritti. Quindi è una fase straordinaria che porta nel 1976 realmente all'occasione nella storia dell'Italia repubblicana più chiara per le sinistre per vincere le elezioni. Dov'è il danno? Chi fa il danno? Non lo fa la strategia della tensione, lo fa il terrorismo di sinistra. In due importanti vigilie, cioè la concomitanza è molto netta, il terrorismo di sinistra agisce potentemente. Alla vigilia delle elezioni del 74 le BR rapiscono Mario Sossi, giudice che avevano più volte minacciato per il processo il 22 ottobre a Genova. E alla vigilia del 20 giugno del 1976 c'è la prima clamorosa azione militare delle Brigate Rosse quando uccidono il giudice Coco, che a sua volta si era opposto alla liberazione dei prigionieri durante il rapimento di Sossi, quindi un'altra vittima indicata e già minacciata. Poi c'è l'ulteriore escalation, quindi è il terrorismo rosso che ferma la stagione più grande di riforme che l'Italia abbia mai conosciuto. Negli anni 70 c'è una stagione straordinaria, ricordo anche la legge sull'equo canone, la legge Basaglia sui manicomi, quindi diciamo un adeguamento della legislazione sociale che è straordinario. Non l'avevo inserito nella rassegna, di tutte queste vicende ne parlo diffusamente nel mio testo L'Italia Repubblicana, uscito non molto tempo fa, nel 2007, per Archetipo Libri. Qua sono ricostruite proprio queste vicende con un taglio diciamo sufficientemente analitico, sufficientemente approfondito. Quindi la strategia della tensione, secondo questa cosa, No. potrebbe servire anche Ha aiutato la sinistra alla per fine, farsi, ma ha aiutato la sinistra grazie a tutto quello che anche si è per farsi mosso. uscire da un certo, diciamo, clima. Sì. Beh, non tanto perché bisogna considerare, no, no, no, non tanto perché il costo è quello delle vite. No, no, no. Le domande sono lecite come le risposte, no? Dobbiamo considerare il conto delle vittime. Su quello non possiamo dire che lì c'è un peso umano. È chiaro che non sono tra gli storici che dicono che la storia non si fa con i se, mi piace ragionare su ipotesi controfattuali come queste. Nel 1969 forse c'è stato uno dei più grandi moti di piazza e le più grandi mobilitazioni in coincidenza col rinnovo del contratto dei metalmeccanici, un qualcosa che non si era mai visto in Italia e neanche nelle nell'Europa occidentale. Il maggio francese dura, tempo di maggio, viene battuto politicamente subito da De Gaulle. In Italia dura di più, il 68 cambia, si radicalizza. Allora, quello che veramente ci dobbiamo chiedere, se non ci fosse stata Piazza Fontana, se non ci fossero state le bombe del 69, se diciamo il flusso delle manifestazioni sociali fosse stato lasciato libero, non condizionato, probabilmente ci saremmo arrivati meglio e prima a quella stagione di riforme che abbiamo evocato adesso. Prego. Cioè, se mai un miracolo che ci sia arrivato. Sì. La Repubblica del Sommerso? Che io ho trovato di grandissimo interesse. Lo è. Perché mi sembrava che potesse essere interpretato come il primo tentativo, io per me era il primo, non sono ancora professore, quindi parlo da sé. Comunque mi sembrava il primo tentativo di rileggere gli anni dal 70 al 2000 in termini che potessero negli anni 2000 portare ad una possibilità di risoluzione di quella guerra civile che di fatto era stata fatta con le bombe o con il terrorismo. E con una svolta. Io non so se l'ho interpretato male. No, no, il senso del testo è quello. Certo. Mi sono messo le forze, io trovo un grande testo, un libricino che io ho scoperto per caso che nessuno e che è stato anche purtroppo criticato dagli storici, come dire, ma tu Francesco Biscione sei quello che guardi la storia dallo spioncino, quando in realtà è poi molto chiaro sugli elementi. Lui ha dato un criterio interpretativo e l'ha lucidamente portato. Certo, certo, è edito da Bollati Boringhieri per chi lo voglia vedere. Prego. Io volevo chiedere, lei prima ha parlato del caso Borghese, ci sono dei parallelismi che possono essere fatti tra il caso Borghese e il caso di Lorenzo del 64? E un'altra cosa, il caso di Lorenzo viene spesso citato come caso solo, perché? Allora, caso di Lorenzo, caso solo, si chiama solo perché era il piano che De Lorenzo avrebbe dovuto attuare, parliamo del golpe preparato nel 1964, perché solo l'arma dei carabinieri avrebbe dovuto attuarlo. Da qui si chiama piano solo, è un piano strategico. Vi ricordo che Nicola Tranfaglia fa invece salire la strategia della tensione al 1964. Ma il caso del piano solo, del golpe di Lorenzo, o del caso Sifar, come viene chiamato dal nome del servizio segreto, in realtà non è nota all'opinione pubblica se non addirittura 3 anni dopo, nel 1967, con una coraggiosa inchiesta di Iannuzzi sull'Espresso, l'Espresso allora diretto da Scalfari, che quindi sono 3 anni dopo, quindi non agisce il meccanismo, diciamo, informativo sul piano solo. E che cosa prevedeva? Prevedeva, cito testualmente, l'enucleazione, termine abbastanza astruso per dire la deportazione, dei principali esponenti sindacali e dei dirigenti dei partiti di sinistra in Sardegna. Era legato a un quadro di consistenti schedature che erano state fatte dal servizio segreto. Funziona, come vi ho detto, da minaccia per la classe dirigente del tempo, non ha un riverbero sull'opinione pubblica. E qual è la minaccia? Si sta discutendo in quei giorni del rinnovo del governo di centrosinistra. È al potere il primo governo di centrosinistra organico, quello di Moro. Prima del governo di Moro c'era stato il governo di centrosinistra programmatico di Fanfani, che pure aveva cominciato a fare delle riforme importanti: scuola media unica, nazionalizzazione dell'energia elettrica. Quando entra in carica il governo di centrosinistra organico, con i socialisti presenti nell'esecutivo, non soltanto nell'area della maggioranza, le aspettative di riforma sono molto forti, e una delle aspettative di riforma è legata a quella della riforma urbanistica. I socialisti si impuntano: dobbiamo fare la riforma urbanistica perché c'è una speculazione edilizia selvaggia, noi dobbiamo dare un ordine alle nostre città, un ordine a questo tipo di crescita. Il Presidente della Repubblica Segni dice: assolutamente no, la riforma urbanistica che volete voi socialisti è una riforma di tipo bolscevico. Il governo cade, trattative per ricostruirlo, e a un certo punto si smette di litigare tra democristiani e socialisti, e i socialisti accettano di ricostruire il governo di centrosinistra senza la riforma urbanistica, un compromesso al ribasso. Scriverà Pietro Nenni, che al tempo era segretario del Partito Socialista: fummo costretti ad accettare questo accordo. E parlò di un tintinnar di sciabole che c'era nel sottofondo, che avrebbe portato l'Italia a una situazione autoritaria, dice, a un ritorno al fascismo. Sa che c'è una minaccia molto precisa, e questa minaccia di De Lorenzo arriva perfettamente ai socialisti, che abbandonano l'idea della riforma urbanistica. Qui Guido Krains, nel Paese Mancato, dice: si perde un importante patrimonio acquisitivo rinunciando alla legge sulla riforma urbanistica, non soltanto perché si rinuncia a proteggere l'ambiente, quanto perché si autorizzerà tutti coloro che seguiranno a fare i fatti propri, a non avere un senso comune, un'idea della regola che puntualmente viene infranta in tutte le disposizioni urbanistiche. Questo, diciamo, in termini molto ristretti, è la vicenda del piano solo. Non esiste un'altra fonte entrata, parli con le persone che hanno conosciuto Pirelli, che la ritengono un fatto assolutamente impossibile, e rimangono lì delle bucate, ma né smentite ufficialmente, non confermate a nessuno, però restano lì. Il libro è un bel libro, non si capisce quanto questo possa giovare una ricostruzione degli eventi. Sono in larga parte d'accordo con quello che lei dice, quello che tu dici. Però no, dove non sono d'accordo con te è che un libro brutto alla fine, no, dobbiamo prenderlo per quello che è il libro del figlio di un ucciso, quindi diciamo anche la pretesa che lui ha è comunque una questione legata a una memoria personale, quindi non ha la pretesa di far storia, dà il suo contributo dal suo punto di vista. Poi c'è l'aspetto della pacificazione e poi c'è un altro elemento che bisogna sempre considerare. La funzione di un libro non la fa l'autore scrivendo determinate cose, la fa l'opinione pubblica, la stampa che lo recensisce, che lo ingrandisce. Questa è stata l'idea sulla quale si è calcato con Calabresi. Io credo che Mario Calabresi nel suo testo Spingendo la notte più in là abbia fatto un'operazione dal suo punto di vista in buona fede. Credo che quello che ha scritto l'ha pensato senza altri fini se non quello di appunto ricordare il padre, di non dipingerlo come mostro, e credo in critica alla controinformazione del tempo che non fosse lui il mostro, non fosse lui il mostro. Il mostro era una struttura molto più grande dello stesso Calabresi. Calabresi era una parte di quella macchina. Forse magari si poteva parlare di più di Guida, che era il suo superiore, come uno di quelli che ha guidato, un caso straordinario di sintonia con il cognome, una interpretazione, una linea. Quindi se noi lo prendiamo come un contributo di memoria, è un contributo utile. Poi è stato calcato, è stato sovraletto o letto secondo quello che è l'orizzonte d'attesa del momento. Va sempre considerato l'orizzonte d'attesa nel successo di un libro. Il grande successo, ad esempio, ci spostiamo un po' più indietro, dei libri di Pansa, è che questi rispondono all'orizzonte d'attesa prevalente nell'opinione pubblica. Si vogliono sentire raccontare questa storia e questa storia l'hanno trovata perfettamente pronta. Quindi la lotta che noi storici abbiamo fatto contro le storture, le bugie, che qua invece sono molto più gravi, molto più grandi rispetto al testo di Calabresi, che non è un testo falso quello di Calabresi, quello di Pansa invece in larga parte per come è stato presentato lo è, ma però appunto attenzione alla eco che un libro produce, che poi va anche fuori spesso dalle intenzioni dell'autore. Prego. Allora lo stesso discorso che ha fatto lei adesso lo si può fare se gli inventi davvero il libro appena uscito della Licia Pinelli, uguale il libro che non ho letto e sul quale non posso dare nessun giudizio. Quello scritto da Scaramucci, una storia quasi soltanto mia. Quello è un libro vecchio. Certo, è un libro che possiamo leggere come equivalente alle memorie. Certamente. Sì. Certo. Scusi, che ruolo hanno avuto gli industriali durante questo contesto? Un ruolo non indifferente. Gli industriali arrivano a finanziare anche lo stesso MSI, lotta continua, denuncerà documentandoli i cosiddetti almirante party, almirante era il segretario dell'MSI, e incontri, ritrovi dove gli industriali finanziavano questo. All'interno del golpe borghese, ad esempio, sono presenti anche degli industriali che erano interessati a questo progetto. Quindi hanno un ruolo. Chiaramente gli industriali non finanziano però soltanto l'estrema destra, finanziano anche partiti come la Democrazia Cristiana, detto che il PC prendeva i soldi da Mosca, appurato tutto ciò, in quel momento storico, questo momento di cui stiamo parlando, i partiti di governo usufruivano comunque anche di congrui finanziamenti dagli Stati Uniti, congrui finanziamenti dagli industriali, quindi non è una, non vivevano comunque di fame, non era la potenza economica del Partito Comunista che schiacciava gli altri, erano ben foraggiati anche queste strati, tra virgolette, finanziando. Dunque, no, non mi sento di dire che avallassero queste stragi. Io mi limito a quello che personalmente so, e che gli industriali finanziavano l'estrema destra, la destra missina. Non so se abbiano finanziato Ordine Nuovo, in che modo, questo non lo posso dire. C'entra. C'entra con la strategia della tensione, ma con l'idea di questa violenza minuta, capillare. C'è la lezione del Cile che è alla base del compromesso storico, 1973, 11 settembre, gli uomini dell'esercito cileno abbattono con la forza la giunta democraticamente eletta di Unidad Popular guidata da Salvador Allende in Cile. Per la sinistra è uno shock. È uno shock perché il Cile era un grande tema di informazione. Sul Cile già dal 1970 se ne parla intensamente sui giornali italiani, e a un certo punto anche per la sinistra come di un possibile laboratorio che ha comunisti, socialisti, addirittura una parte dell'estrema sinistra che dialoga direttamente con il governo, e anche in un primo momento ha l'appoggio della Democrazia Cristiana, in un primo momento, dopo no. Quindi il Cile è visto molto da vicino, sia da destra che da sinistra, sia le testate di destra che le testate di sinistra guardano al Cile con molto interesse. Quando c'è il colpo militare è uno shock per la sinistra. E qua Berlinguer si rende conto di una cosa: non si può governare con il 52, con il 53%, perché non si andrebbe da nessuna parte. Il potere di contrapposizione dell'opposizione sarebbe troppo forte e potrebbe risultare una situazione di tipo cileno, stante anche tutta la violenza che c'è, il lavoro dei servizi segreti impiegati nell'attività di copertura di queste azioni che abbiamo accennato fin d'ora. Quindi realizza questa proposta di compromesso storico che include i tre grandi partiti popolari, cioè il disegno è quasi quello di una rifondazione della democrazia, di un nuovo patto costitutivo per ridare un nuovo assetto solido alla Repubblica. Limite di questa proposta è che comunque sarebbe stata una proposta a tempo, quindi avrebbe comunque definitivamente casomai legittimato il Partito Comunista come partito di governo, ma sarebbe stata una proposta a tempo. E il limite anche che tende un po' a deprimere una parte della sinistra, cioè come dobbiamo governare con i democristiani con i quali ci siamo scontrati in tutti questi anni, la DC che comunque è legata, è in parte, in alcune sue figure, corresponsabile di quello che è successo, quindi diventa una questione fortemente ambigua. Guarda, se parliamo del ruolo di Pio XII, quindi fino alla sua morte, fino alla fine degli anni 50, sono d'accordo con te, è un ruolo molto pesante. Con Paolo VI meno. Certo, Paolo VI è l'amico di Moro, è quello che credeva all'unità dei cattolici, però è anche un papa che ammette l'uso dello strumento violenza contro gli stati che non rispettano i diritti civili, che fanno violenza. È il papa del dubbio, non è un papa reazionario, Paolo VI, addirittura è fortemente osteggiato dalla destra perché è definito un papa conciliare, mi dica. Certo, poi quello chiaramente ha un'influenza diversa, ma in questa fase direi che il ruolo della Chiesa, divisa come sempre tra tendenze più progressiste e tendenze più conservatrici, non ha quel peso che ebbe nelle elezioni del 48 e in quelle del 53, di fatto viene sconfitta. È la Chiesa che vuole il referendum nel divorzio del 74, è la Chiesa che cerca di convincere anche i dirigenti democristiani che capiscono che si può andare contro una sconfitta che non farebbe bene. E Fanfani viene a vari incontri con diversi prelati e lo convincono della necessità che bisogna andare avanti, bisogna combattere questa cosa, ma il 74 viene sconfitta e c'è una perdita reale di peso dopo questa sconfitta della Chiesa. Il discorso dell'attendibilità della dichiarazione di Moro l'ho fatto con un passaggio molto rapido. Moro dice molte verità che si sono rivelati tali dai riscontri che abbiamo fatto successivamente, no? Racconta una serie di segreti con il memoriale, nel memoriale che scrive. E Moro intanto è un personaggio che di fatto le istituzioni non vogliono salvare, andiamo da questo punto di vista. Cossiga assume un esperto statunitense che dirà che il suo compito era quello di non liberare il prigioniero, anche questo lo ritrovate nei Neri e Rossi. E a questo punto si crea una delegittimazione fortissima del prigioniero che agisce sulla stampa, sull'opinione pubblica, qualcosa che non era mai successo prima. Si comincia a dire che Moro forse l'hanno drogato, che Moro non è attendibile, perché scelta quella linea, la linea di evitare ogni confronto, ogni trattativa con i terroristi, c'è l'impatto psicologico fortissimo dei 5 uomini della scorta di Moro uccisi, quindi questo dà una spiegazione, non è la sola dell'irrigidimento delle istituzioni, ma questo irrigidimento si riversa contro Moro in maniera molto forte, perché si dice Moro è agito dalle Brigate Rosse. Qualunque persona fatta prigioniera, se ha occasione di scrivere una lettera, dice liberatemi, e lui pure non poteva che fare questo, però era l'idea di delegittimarlo. Clementi dice lo si è ucciso prima ancora che effettivamente i terroristi lo giustiziassero. Vi ricordo che il libro di Clementi e il libro anche di una terrorista pentita, non mi ricordo se è la Balzarani, non sono sicuro su questo, intitolato Il prigioniero, è stato di base per lo splendido film di Bellocchio, Buongiorno Notte, dove in parte questo contesto è ricostruito. Prego. Lei ha citato il film. In un certo senso, quando si parla di controinformazione, si possono citare alcuni sei film, come per esempio Vogliamo i colonnelli, tanto per fare quelli che ha citato il professor Giannulli. Quella non è una sorta, una forma di controinformazione attendibile, meno attendibile, eccetera. Sì, anzi, è un film decisamente attendibile, a parte che ha il piacere visivo di una commedia italiana riuscita, perché è molto divertente se uno lo vuole vedere senza impegnarsi. La cosa che stupisce è la correttezza dei riferimenti storici che ci sono dentro questo film. È un film straordinariamente preciso. L'idea di fare, di tentare un colpo di Stato per farne un altro, è in realtà il fine ultimo del golpe borghese. E nel film Vogliamo i colonnelli è espresso con una chiarezza disarmante, ma disarmante al punto da far pensare che era stato ben informato Monicelli sull'entità reale di questo aspetto. Poi c'è tutto l'aspetto della goliardata che è visto però con un certo senso comunque anche di inquietudine nell'esito finale. Ci sono dei personaggi che ricordano personaggi veri, con allusione addirittura anche alla mafia. Chi ricorda il ministro dell'interno, che poi è quello che materialmente fa il colpo di Stato, si chiama Limasi nella finzione cinematografica, è in realtà l'alter ego di Salvo Lima, che era l'uomo di Andreotti in Sicilia, collegato con la mafia, portatore, collettore di voti mafiosi. Vi ricordo che la mafia siciliana è interessata al golpe borghese, è dentro una parte della mafia siciliana, è dentro questo tipo di operazione. E nella realtà, non nel film, ma anche con aspetti comici, si riuniscono al borghese con alcuni congiurati, con dei mafiosi a Roma. E a un certo punto Borghese dice: beh, insomma, voi mafiosi ci dovete aiutare a mantenere l'ordine in Sicilia, e magari vi mettete dei braccioli di riconoscimento e poi arrestate qualcuno. Al che un mafioso gli ha detto: mezzaga, arrestare, mafioso noi siamo, se c'è da ammazzare qualcuno volentieri a disposizione, ma noi non arrestiamo nessuno. Ci vediamo martedì, grazie. E la domanda? La domanda. Tu ce l'avevi scritto. Io sono venuta a questo seminario perché mi interessa, perché purtroppo lì sono volevo chiedervi di dare una definizione, ma anche perché vorrei riuscire a fare almeno tenendo conto di quello che si è detto oggi, noi eventualmente di e quindi tenendo conto dell'arco, sì, se riusciamo a trovare la data, sì, dei soggetti, mi lasci la sua domanda, sì, che poi ne parliamo con calma. No, molto semplice, Mirko Dondi, il mio nome. Sì, quando scriviamo, io scrivo tutto. Qui. Me la metto stampatelli per piacere. Sì. Legge mirko.dondi@unibo.it. Sì, certo, non stai a Bologna. Sì. Grazie. Volevo farti una domanda. Ha detto che ha fatto due piani sulla strategia delle estensioni, ma anche uno di avviso allo Stato, diciamo, al governo. Allora, vedendolo in questa ottica, Portella della Ginestra potrebbe entrare nella strategia delle estensioni. Tant'è vero che, cos'è, due settimane dopo, i comunisti socialisti escono dal governo. Quindi potrebbe essere... Potrebbe cominciare da lì, beh, nel piano dell'avviso al governo, oppure no? Non lo so se comincia da lì nel piano dell'avviso al governo. Però potrebbe essere una lettura? No, perché l'uscita dei comunisti era già una scelta fatta, De Gasperi stava aspettando il momento. De Gasperi non era De Gasperi non era convinto, ma poi si convince che i soldi americani, dai, se li caccia. Esattamente. Lì aspetta il momento, c'è una crisi di governo dove ci sono le sinistre con un potere ridotto, che è il passo poi per allontanarle definitivamente. Secondo me no, non è un avviso. È un avviso ai sindacalisti, è un avviso a chi vuole sovvertire. Sì. Al PC più che alla DC, quindi, certo, al PC in quella fase lì è l'unico che si occupa dei meridioni in quel momento, certo, non l'ho detto, ma ci sono una serie di uccisioni di sindacalisti, Placido Rizzotto peraltro, sì, beh, altro film, Salvatore Giuliano, sì. Di Rosi mi pare, sì, esatto, per un altro potrebbe essere il moderatore della controinformazione, sì, è un bel film. Ci sta, che vediamo i colonnelli, colonnelli è tragico, ma è un must, non si può, mi piace tantissimo, e Tognazzi è forse una delle più grandi interpretazioni quando fai il fascista. Arrivederci, grazie, ciao, arrivederci. Una curiosità, visto lo stralo, gli stralli che hanno fatto su Pan, se si riferisce fondamentalmente a tutti gli ultimi libri o qualcuno in particolare degli ultimi dal Sangue dei Vinti? Il Sangue dei Vinti, la grande bugia, ma poi Pansa ci conosciamo, abbiamo fatto anche una serie di confronti, dove le cose che ho detto qua le ho dette direttamente anche a lui, ma era un confronto dove io uscivo già perso, perché la risonanza che ha avuto Pansa non era minimamente paragonabile alle critiche circostanziate che gli storici hanno fatto. È veramente un'opera di falsificazione storica. Nel Sangue dei Vinti non è espressa una delle ragioni che sono alla base di quello che accade nel dopoguerra. Non è spiegato questo fenomeno, è indicato, ampliato, le vittime sono indicate in 20.000, sono 10.000. Non le ho, credo di avere contato tutto il possibile, altri che poi hanno... dopo il mio libro l'hanno fatto, sono arrivati a conclusioni analoghe. E però è il doppio caso, però anche oggi c'è chi lamenta al contrario, dai 4 ai 6 milioni di ebrei, magari se chi dice, probabilmente stupidamente, che non ci sono almeno 200, perché c'è stato qualcun filosofo, con l'istra sapienza, certamente che quanto ci vanno. Piuttosto che le famose foibe, c'è chi dice centinaia, che parla di migliaia, che penso che su quello riusciamo a dare sul piano delle uccisioni degli ebrei non sono un esperto, non entro nel merito. Sulle foibe, cioè, noi possiamo ricostruire, noi abbiamo tutti i registri anagrafici della Croce Rossa che ci dicono quante persone non sono state ritrovate, e anche lì fui tra i primi a vedere una serie di documenti, e quello che accadde dopo è stato confermato anche da gente che ha visto più documenti di me, è arrivato alle stesse conclusioni. I fenomeni vanno spiegati, va detto il perché succede. Se sono presentati così è strumentalizzazione. stupido, ma tutto scemo, va. Tutto scemo. Questi camerelli si è bloccato. Perché? Che cos'è? Se va a birla. Solo che adesso mi... Cretino. Ma va. È il mio suo, mio suo. Thank you. ti nascondi. Sì, puoi spostare il giornalino, non riesco a riprendere. Scendere? Mattino. Dove cazzo andiamo? Ma come pure cazzo? Mi fai studiare molto. Cazzo di stoicista devi fare. Faccio di cazzo, che base di merda. tabacco. Dai. Non lo guardare. Vuoi chiamare Marika? Mi ha mandato un messaggio e mi ha risposto. Fermi un filtro piuttosto che fare sta roba. Anche due. C'è una buccia. Sì, non c'è niente. Ci sono? I pugni in tasca! Un film di... Mica che figa sta casa! Daniele! Se vuoi che tu... Cosa c'è l'albero di mandarino? I mandarini a Milano, mai visti! Pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom. On sein pedofile, jalla puttana gaddo. Sono stupido. Madonna, mi devo scattare la mano. Io non lo vedo. Dai merda, abbracciami, piantala con sto geggio. Allora? Sto facendo un mongoloide. Sto riprendendo come un mongoloide.